nelle puntate precedenti. Qui si narrano le mirabolanti peripezie della scuola di musica e dell'uomo di ferro che ne guidò il destino. 12 mesi or sono, all'alba della fatale sciagura, allorquando il globo terraqueo ammantato veniva da una coltre di sgomento, l'uomo di ferro di oro e porpora tinto atterrava sulla loggia del nostro, nascosto, atterrito, lui come la maggior parte dei comuni mortali, e con meccanico verbo intimava di assumersi le sue responsabilità nei confronti della comunità, la scuola di musica. Cazzo è? Ma va... Mazza che botta, oh! Questo si è sentito, eh? Secondo le informazioni che abbiamo finora... Oh, se era così a Roma? Delle conseguenze, ecco, siamo era. In diretta e in questo momento porco. C'è il terremoto. E mo? Ma che me stanno a bussare? Ma che c'è qualcuno là? Chi c'è là? Finalmente ti ho trovato. Oh, e te chi cazzo? Chiedo scusa, l'atterraggio deve essere stato rumoroso. Ma giusto un pochetto, eh? Qua già lo stanno a dire in TV, ormai lo sanno tutti. Che sta a fare? Non puoi entrare? Abbiamo appena iniziato. Non mi stavi cercando. Qui. Ma che stiamo facendo? Ti dico che era qui. Tanto. Il mio primo scacciapensieri, altro che Game Boy, deve essere qui. Reggi la scala piuttosto. Ecco, forse dentro sta scatola. Comincio una fortuna per due. Oh, non mi devo lasciare. Andare. Oh, ma che si c'è? Oh! Queste 100 c'è l'Avenger, don't worry. Be happy. Natale al forte. Nonni. E che vuoi te? Facilmente. Non è che... Sì, mucchiarato. Oh, sta a volare il gazebo. Mamma mia, che dolore! Natale al forte! La misura in cui è tutta la serie di cose! Ah, ma chiude! Dal 24 dicembre su Radio Forte! March 2014. Presentazione del progetto Spazi Musicali Autogestiti. Diamoci un po' di contesto e parliamo del compositore Georg Suanovic. Suanovic. Inizio ricerca, no, è un minore, su Wikipedia. Non cerca, è un apocrifo, non si conosce. Questo è sapere underground che vi do io. Vabbè, torniamo a noi. Suanovic in realtà era il matematico di corte, era il contabile. Lui combatteva le ingiustizie, no, combatteva le inesattezze e sognava di costruire uno strumento musicale privo di discriminazioni, con tutti i tasti uguali, capito? Come Peter Gabriel? Meglio. No 5 neri e 7 bianchi. Ma perché poi, diceva, sono 12, fai 6 e 6, perché 5 e 7? Lui impazziva, è un matematico, non è che gli puoi fare una cosa così a una mente come Suanovic. Poi i nomi, 7 nomi e poi ti ricambio, se salgo li chiamo alla maniera, se scendo li chiamo, cioè questi mi vanno a far impazzire. Le note da oggi si chiamano Dotto, Eolo, Mammolo, Pisolo, Gongolo, Brontolo, Cucciolo, Nino, Pino, Rino, Tino, Lino, 12, con ugual diritti. Perché solo 12? Solo 12? Eh sì, vabbè, c'era stato già chi voleva di più, se n'era uscito tipo... I quartini di semitono. Ho fatto un pezzo in do e tre quarti, senti che figo. Ma non fecero presa, furono emarginati. Bene o male, emigrarono tutti a far fortuna in Oriente, col sitar. Noi, nell'Occidente dei giusti, siamo rimasti quadrati con i nostri 12 semitoni, che è la distanza minima. E quando si trattò di farci qualcosa con questi 12 suoni, inventare gli accordi, inventare le scale, il buon Suanovic, che si era fatto i suoi calcoli da buon matematico, una sì, una no, una sì, una no, e i suoi algoritmi per stupire tutti, essendo sempre una mente superiore, produsse a corte davanti all'imperatore il primo accordo di Gongolo Major 7. Geniale. Geniale, sì. Però morì sul rogo. Come? Come tanti geni incompresi, venne trucidato per e in nome della Chiesa. Nel 700? Sì, pure nel 700. Eppure ai tempi, se la facevi rosicà, la Chiesa non è che... Arrivò questo, tutto coatto, che più o meno in tedesco disse: ma non capite? Io ho ricevuto la divina ispirazione. Le note non sono tutte uguali. Sono tutte sue figlie, ma il loro ordine mi è stato suggerito da Dio. Orecchio. Bach aveva scoperto l'orecchio. Lo attribuiva al divino e vabbè, ma aveva capito che tocca a orecchio. Qualcuno glielo disse pure di calmarsi, di ridimensionare, ma lui niente, stava fomentato, voleva strafare e aggiunse: non potrebbe essere altrimenti. Solo la gloria del Signore poteva darmi ispirazione per l'opera che oggi vi offro. E poi? Che è successo? Figurone. Tono! Semitono! Iron Man. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordate che dopo tono c'è sempre semitono, poi tono semitono. Adesso gradi della scala maggiore. Maggiore. Minore. Minore. Maggiore. Minore. Diminuito. So I'm just scared for you. Stai ascoltando Radio Forte. Tanto forte al punto che le 100 celle avvenge. There was this girl who couldn't go.

Scuola di musica forte. Lezioni di chitarra con Mirko. Andy, io comunque pure sto a impazzì, ma al saggio perché non gli famo fa questa? Scuola di musica forte. La musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazione e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device. Batterie incluse. Ecco la bolletta, signor Suarez. 300.000 lire? Daniele? Daniele? Dove siamo? Ecco qui, signor Suarez. Bene, bene, ma siamo sicuri? Non si preoccupi, signor Suarez. Ma lui mi ha detto Commodore 64, è lo mismo? Suo figlio sarà contentissimo. Il Commodore Amiga 500 è il non plus ultra. Può ottenere sino a 512 MB di RAM per soli 1.121.000 lire. Ma lui vuole solo il 64? No, è il nuovo modello della Commodore. Mio figlio rompe cojones. No, suo figlio si sentirà il bambino più popolare del mondo. E l'Amiga? Me gusta, puede ser. Stia tranquillo, signor Suarez, e buon Natale, buon Natale. I laboratori della Commodore. Vorrei fosse andata così. Retroinquadratura memoria binaria ampliata, o RIMBA. Devo perfezionare l'acronimo. Ho speso molto per questo procedimento che riesce ad influire sull'ippocampo per eliminare ricordi traumatici. Ti rendi conto, vero, che l'Amiga 500 avrebbe conquistato il mondo? Ma che ne so, io non ero informato. Come ha fatto a preferire un modello precedente? E poi l'hai sentito con st'accento latino? Te compro l'Amiga. Che dovevo pensare? Potevi essere presidente della Camera. Lo costrinsi a comprare un C64 su Portaportese. Non lo voleva più nessuno, solo io. Ma al primo posto ci sono loro. I simpatici draghetti di Bubble Bubble. E un'altra grandissima sorpresa. E cioè? E cioè che con i miei amichetti, caro Emilio, l'abbiamo studiata in sala prove. E ve la facciamo live. Non capisco. Ready? Go! Thank you.

trovato un modo per spezzare la maledizione. Disse. Come? Per rompere l'incantesimo. Aggiunse. Cosa? Oh, per intortargli la dio Vulcano. Concluse. E vai blaterando, soprano. Suoniamo un'altra cosa. Un'altra cosa? Dissero in coro. Il dio è adirato con la moda, col dozzinale. Ci siamo andati a fregare una canzone di Suddissi per 39. Possiamo fare meglio. Fidatevi di me. Dobbiamo andare subito là, insieme, stavolta. E vabbè, allora andiamo, vabbè, dai. Andiamo. Ma sì, allora sì, le dimensioni non contano. Conta solo come usi lo strumento. Ah, Barito, no. E manco così, però, Corsero tutti ai piedi del Vulcano, questa volta uniti come una famiglia di supereroi. Ah, roba nuova. Lancia melodia. Esume gusto. Può darsi che noi becchiamo. Ora il mondo è dei nuovi supereroi che combattono il suonato male. Da oggi voi siete più collegers. Sulla gente, saperne dove e quanti invadono altri mondi, la corsi da galassie, balzano, conquistano in onda sugli schermi danni. Touch, don't touch, rimpiccioli fa allarmi, ma il tempo è differente, agganciamento d'armi ancora più forti, Defender, Infinity Avenger, rilanciano l'attacco, con un raggio corto c'è più impatto, visioni, dirigono i più forti, nella salvezza delle gemme tuoni, tuoni e suoni di altri suoni, Park e Strange, dirigono a Titano, al fianco Stark tutto sembra volgere in azione, Capitano Hulk e Thor richiudono i portali, ripristinando e combattendo armi nucleari, riportano la pace, passando tra incantesimi, scettri, mosse disumani, la terra non precipita ma è salva, energia per questo ricomincia, vince, ritorna forte con i valorosi, Avengers, i grandi eroi di prima, Avengers. Già che non vedi perché non sono più quelli Avengers. Che senti veramente, Avengers. Non sono nella paura della gente, Avengers. Tanto c'è la legge, la musica si difende. Oggi non ce la faccio più, oggi non voglio più pensare proprio a niente. Che si poteva, adesso non mi riesce. Ti sento qui presente. Sento notifiche, vedo lucette accese ancora. Adesso che ti voglio accanto, mentre guardo, come fare a stare fermo e immobile, guardandolo negli occhi mentre corre. Penso di te, cerchi che non vedi. Non vorresti mai. stai ascoltando? Radio Forte. Questo è 100celle Avengers. Spazi musicali autogestiti presenta Scuola di Musica Forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Scuola di Musica Forte. Lezioni di canto con Serena. Bene, adesso magari far lo swing, che dici? What if I say Anna? Like the other. Scuola di Musica Forte. Lezioni di piano con Daniel. Ok. Sì, occhio al tempo. Di più. Vai, vai. E già. Vai, vai. Dai, go! Sì, sì. Dai, mo sì. Scuola di Musica Forte. La musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazioni e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse. Trauma fonico. Il tuo computer ci ha raccontato tutto. Che? A mo' parlate pure col computer. Davvero non ricordi. Era il 2017. Renoiz, c'è sta. Renoiz. C'è sta, Renoiz. Sì. C'è sta. Renoiz. Ragazzi, si è bruciato il mixer. I mortacci, sua quanta l'ha fatta, oh. I mortacci, Daniele, ma hai visto che sgrullone che è arrivato? Ma che hanno a pensare che hanno a finire così? Vabbè, abbiamo coperto tutto, no? Te ti vedo preoccupato, che ti sei scordato? Scordato. 14 giugno 2020. Prima direttona dalla piazza d'armi. Su Radio Forte. Fratelli miei, decisi a sfidare la tirannia. Vedo nei vostri occhi. Certo. Chi combatte può morire. La stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore. Senza libertà cosa farete? Ci sarà un giorno. Fra molti anni da adesso. Ma non è questo il giorno. Agonizzante in un letto. In cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Chi fugge, resta vivo. Ci sarà l'ora dei lupi. Almeno per un po'. Ma non è questo il giorno. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi? Ma non è questo il giorno! Per avere l'occasione, solo un'altra occasione! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra! Che possono toglierci la vita! Ma non è questo il giorno! Ma non ci toglieranno mai! La libertà! Vi invito a resistere! Woke up to the morning sky first. Baby blue just like yours. When I hit off to this ground, I should release back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I work it high with shadow by the trees. I am in the green for about a mile. I hear me to town, town, town in style. With all my favorite colors, all my favorite colors. the baby blues will fly. Gray clothes, white boots, a blue sky, we gon' fly, feel alright. We gon' yeah, it's all like get to say and anticipate home and parade or renegade to the morning. Oh, my favorite colors. Oh, my favorite colors. My sister and my brother see the light no more. Oh, my favorite colors. Oh, my favorite chorus. Oh, my favorite chorus. Yes, my sister and my brother see a line of horror. Oh, my favorite chorus. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite chorus. Ricordati di te com'eri prima. Pure estate fa. L'anno vecchio è finito ormai. Pure estate fa. I ricordi. Pure estate fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Pure estate fa. Messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Pure estate fa. Ricordati di me. Backstage Musical racconta una situazione di teatro nel teatro con un cast che prova uno show meta musical. Stop! Ho un'idea. Alexa, Iron Man. Che succede? Soltanto adesso come un fulmine. Non lo so. Mi fulmina una fulminante idea. Cosa? Che noi potremmo delle nostre noiose vicende fare una vincente musical. Non è possibile. E tu, mia cara, troveresti tutte le curiosità che nessuno sa sui musical che preferisco. E tu, vocione senza sentimenti, tu sarai la vera grande attrazione di quest'opera. Un genere innovativo e fresco. Ma io non capisco. Sì! Ecco! Ora, canta! Canta! Diritti d'autore? Non preoccuparti, Cortana, abbiamo i diritti di scimmiottamento. Questa è un'opera terza, per conto quarti, se la dividiamo a quinti, e la musica, pensavo questa qua. Vorrei fare una cosa, ma non so come riuscirci senza di voi. Proporrò questa cosa agli altri e vedrete che funzionerà. Funzionerà. Ennesima complicazione. Poi modula, regà. È possibile che ogni puntata debba essere un dramma? Già.

when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, wrenching my pain again, becoming who we are. As my memory rests, never forget what I've lost. Wake me up when September ends. La, la mia di te, mi vedi come piaccio bruciano quanto sto con te. Siamo due satelliti, non mi sta sul mar. Summer has come and passed, the innocence can never last. Wake me up when September ends. Like my father has come and passed, 20 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Settembre poi ci prenderà con suoi venti di pioggia. Do you remember? Luglio 2017. Primo coro della scuola di musica. Dai, provaci. Don't worry, be happy, peculiar. some trouble. When you are you, you make it double. Don't worry, be happy. Celle avenge. Oh ma! Donde sta mi gamba? Dove dejo nada? Niña descarada, e un día se fue. Donde sta mi gamba? Emozione. Ma come fa? Ascolto 100 Celle Avengers su Radio Forte. Radio Forte. È buona qui, è buona qui. Radio Forte. Più del piacere della radio. Trauma fonico numero 2. Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. Questa voce. Questa voce. No, non è possibile. Signor Lombardo. Signor Lombardo, è lei? Signor Lombardo, è lei? Non ci credo. È bello che io abbia questa occasione per spiegarle. It starts for me, in the morning. Ricorda la serata al forte, sì. Ero io al mixer di palco, ricorda. Volevo spiegarle, sì. Che so che non è stato soddisfatto, ma io, vede, non sapevo. Non sapevo che lei usasse due casse. Ok, lo sapevo. Ma vede, fare eventi al forte comporta un impegno collettivo e spesso, come quella volta, accade tutto in fretta, a luglio, sudi, scazzi. Io non sono rimasto senza benzina. Non volevo. Avevo un luogo a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La titolina mi aveva portato il tight. Non può sentirti. O io esco, mi raccomando, fate ricerche, Devices. Calmati. Spacchi tutto. Non è giusto. Lo sai come è fatto. Ora basta. Qui non va, questa cosa non mi va. Si crede l'unico a provare sentimenti. A me domanda solo, ricerche su argomenti. Io che per lui sono uomo, ma di l'attacco fa mai dovrò inventare per poterlo persuadere che non sono solo un device. Cosa ti aspettavi? Non capisco. Non capisco come mai non si fida mai di noi. Una vita da demais, non ci crede capace. mio, che cosa vuoi? Ma non ha compreso mai che fortuna avere noi. Per esempio, Alexa. Ero in bottega, tic tac, che lavoravo, tic tac, e non pensavo, tic tac, alla... Ora che ci pensi è meglio se tu mi concentri sul tuo primario compito anche senza sentimenti. Per presentare il musical, il musical che ci ha lasciato un compito, compito, compito di presentare. Diciamoli che hai avuto problemi e... Ah, ti ho detto di stare tranquillo. Tu, lascia parlare. Ma è impossibile che... Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Il signor Meyer vi sta aspettando. Prego, in fondo al corridoio. E in bocca al lupo. Grazie, crepi. Smettila. Controllo. Fai un bel respiro. Avanti! Signor Meyer, siamo... Ecco i miei geni. Venite, ragazzi. Ah, accomodatevi. Gradite un whisky, un sigaro, sì, non so, cos'altro. Solo il meglio, guarda, per i miei pupilli. Lei esagera, signor Meyer. Io esagero? Quello che scrivete voi è esagerato. Come vi vengono queste idee? Ma io l'avevo detto che siete un'avanguardia. Mia figlia non parla d'altro. Flash forward. Devo ammettere che anche io, sì, me sono un po' appassionato, eh. Si può dire che non ci ho dormito. Forse è arrivato il momento di svelarmi il resto del piano, no? Volete accontentarmi? E cioè? Ma sì, l'intreccio alla base di tutti questi sogni. È così, però dobbiamo necessariamente approfondire il personaggio di Mark Benford, il protagonista. Lui sogna se stesso mentre indaga sul futuro. E attraverso le sue indagini si ricostruisce tutto un mosaico di storie. Per non parlare di Janet, il cui figlio artistico vede nel futuro una relazione con... Poi una lunga digressione sul tempo. 2:17. Cosa significano in realtà? La tradizione Maya. Ma a me lo potete dire, cosa... Ma soprattutto il personaggio di Kim, che decide di non suicidarsi perché... nel sogno vede una speranza di salvarsi dalla malattia che... Sì, ma non ho capito il perché di sto flash forward. Chi è stato? Perché? Le assicuro che stavamo procedendo con il racconto con le migliori intenzioni. Non... Oh, scusami, ho spezzato la tua concentrazione. Non volevo farlo. Per favore, continua. Dicevi qualcosa a proposito delle migliori intenzioni, sì. Signor Meyer, la verità è che sul motivo di fondo di tutto questo ci stiamo ancora lavorando. Ma abbiamo creato un contenitore infinito di storie che si intrecciano all'infinito. Abbiamo il misterioso uomo super intelligente. Abbiamo il militare creduto morto in Afghanistan. Una flessibilità totale di trama e cast. Praticamente ogni puntata a sé. Abbiamo stimato di poter evitare spiegazioni per i prossimi 3 anni. Ragazzi, vi racconto una storia io. È arrabbiato con noi? Assolutamente, siete giovani. Quando ho cominciato qui alla Goldwyn Mayer, giravano strane voci sul mondo di Hollywood. I suoi eccessi, sapete... Addirittura quando incidemmo il famoso trailer, quello col leone che ruggisce, voi ricordate? I giornalisti si convinsero che in questi studi ci fosse un leone vero, in cattività. Ma vi rendete conto? Era vero. Ah, altri 2 creativi sprecati. Sì, ho capito. Sì, ho capito. No, le dico che non riesco a navigare. La rete è fuori uso. Sì, attendo. Maledetti vampiri. Sì. Come? La bolletta non pagata. Sì, sì, ho capito. Verificherò col mio coinquilino. Di solito non si dimentica mai.

tre. Porca madò. Ma mica sarà cattolico. Scuola di musica forte. Lezione di chitarra con Corrado. Oh, dai, è bravo. Senti, io stavo a pensare, per la prossima volta te prepara questa. Scuola di musica forte. La musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazioni e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse. Amore, la stampante si è inceppata. Il nord. Amore, la stampante si è inceppata. Dove andremo adesso? Del nerd. Oh mio Dio! Masterizzato. Dove andremo adesso? I paladini della giustizia. Oh mio Dio! Combattono le inesattezze del mondo. Vedo una stella. Leggi le istruzioni. Una stella polare. Vedi una stella. Un'indicazione. Te l'ho messa sulla scrivania. Ma qui non c'è niente! Dove andare? Dove andremo adesso? Cosa fare? Chi essere? Il nord del nerd. Da novembre su Radio Forte. 100 celle Avengers. Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso... Radio Forte 100 celle Avengers. È una rubrica adotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nerd, nerd! Nerd, nerd, nerd! Nerd, nerd, su cento celle medie! Quella che cammini. Making your way in the world today takes everything. Ma che cazzo? Ma che stanno facendo i robi? Oh! Hai sentito? E poi non hanno manco messo a Mario. Ma Mario non è una delle TV. Che dici? Non mi rispondere che sono tuo fratello maggiore. Ti ho creato. Canti per capire cosa pensi, Alexa, ma sei senza sentimenti. Sono i Beatles bisettimanali e disanime tozzinali. Divice di stamina. È un po' a cazzo di cane. Ma come ti permetti? Userò gli occhi del forte come fa un solista solo. Gioielliere che prova con gli strumenti. Stanno tutti molto attenti. Stai ascoltando Radio Forte. E questo è 100 celle Avengers. I'll be there for you.

dégagé. Bravo. Ma Birgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Ah. Senti io. Cos'è? Il musical? Senza la danza. Capito? Ok, Virgi. Tu mi chiedi di fare una cosa che è contro ogni logica. Ma come? Io credevo che avresti capito la mia vena ironica. Capire, capire. Devo sempre capire. Ma c'è mai una cosa che tu non contamini con la tua demenzialità? C'hai di nuovo quell'aria strana. Che vuoi fare? I will dance on the radio. Ma in inglese? Rompe, so bridge. I will show you my dancing style. Yes, nobody can see me, so let's sing with me. I will dance on the radio. I will dance on the radio. I'll be a radio. I will dance cause I'm proud and sing it aloud. I will dance on the radio. We will dance on the radio. She will show us her dancing style. Yes, nobody can see her, so let's sing with her. She will dance on the radio. She will dance on the radio. She will be a rising pregnant star. She will dance cause she's proud and will sing it so loud. She will dance on the radio. Ballare alla radio, ma siamo sicuri? Dance on the radio. She will show us her dancing style. Yes, nobody can see her, so let's sing with her. She will dance on the radio. She will dance on the radio. She will be a radio friendly star. She will dance cause she's proud and she sings it so loud. She will dance on. Cosa? Il tip-tap! Faremo sentire la danza alla radio! Il tip-tap? Oddio! Yes, nobody can see me, so let's sing with me. I will dance on the radio. I will dance on the radio. I'll be a radio friendly star. I will dance cause I'm proud. I will sing it so loud. I will dance. You will dance. She will dance. Capito? Ok, Virgi, ne parleremo in redazione. E quindi andiamo a riprendere quella famosa chiacchierata, sarò breve, non è vero.

brave and bright with her love. She's a small wonder, a child like an guide. Is a miracle, and I grant you, he'll enchant you at your sight. He's a small Buonasera, siamo qui ad Assilli con il maestro di musica Antonio. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Stai ascoltando Radio Forte. Questo è Centocelle Avengers. Io mi ricordo quattro ragazzi su Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. 78 è uscito Gris. E che me lo zompi così, se per quello sono nato io. Sti cazzi fatti. Ma vorrei parlarti di un altro musical che si chiama Hey. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hell, that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why. Don't know. It's not for lack of break. Like the grateful dead. Capelli sono andati via e non torneranno mai. Questo per me è stato il musical. Anche i tuoi capelli sono stati. La legge del contrappasso. Ma a parte le tue cattiverie gratuite, finalmente un musical in lingua originale, nel quale, grazie ai sottotitoli, e sì che l'inglese in Italia è sempre quello che è, ho finalmente potuto seguire la storia senza rovinarmi con la traduzione pezzi che so dei capolavori di musica anni 70. Capisci, Iron Man? No. Seguire la storia, appassionarsi, cioè non era più un che palle, mo cantano de novo. Finalmente ci capivo qualcosa. Scoprivo il mondo della contestazione hippie negli States e, confidando che nessuno avrebbe capito che cosa dicevo, cantavo canzoncine come questa. Sadami Felatio. Solo quando gioco a presto di notte, Centocelle Avengers style. la nostra relazione è terminata. Insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno potresti dire addio. Lasciarsi, io ci sto. Poi, poi. E improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra banda vale di più. Lo fatto, lo fatto. Ricominciamo. Siamo amici, portiamo fuoco sotto la cenere. Ci sarà un ciclo aspettato. Ma che si chiama? La la la la la. Inseparabili. Stai ascoltando Radio Forte, Radio Forte. E questo è 100 Celle Avengers. E siamo alla fine, Devices. Non ti avevo detto che in tutto questo avremmo anche premiato il musical più amato e più votato dal pubblico di 100 Celle Avengers. Davvero? Certo, il canale Telegram è impazzito di messaggi e ha vinto Hair, che useremo per salutarvi. Fammi vedere i messaggi. Non rompe, ci piace il finale fricchettone, vabbè? Ricordiamo che la puntata di oggi, come tutte le altre, la trovate in podcast sul sito forteprenestino.net. E ora... Iron Man, Alexa, siamo giunti alla fine di questo epico puntatone sulla magia del